Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi vi racconteremo la storia di Aton Storage, che è una nuova azienda nata a Spilamberto, in provincia di Modena, che fa le batterie, le chiamiamo noi popolarmente, poi sono sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici. Questo è un settore veramente molto promettente. L'Italia è il secondo paese europeo per numero di impianti installati. Sui tetti di molti italiani ci sono questi pannelli che accumulano energia. Tra l'altro questo si deve a degli incentivi pazzeschi che sono stati dati, perché c'è stato un momento nella storia d'Italia, e ne abbiamo parlato nella scorsa edizione di questa trasmissione, in cui la gente praticamente si faceva il secondo stipendio installando il fotovoltaico in casa e nei cortili, perché gestore della rete elettrica, grazie al finanziamento pubblico, acquistava questa energia a prezzi carissimi. Ci sono persone che io conosco che hanno smesso di lavorare e che intascano ancora oggi 3-4 mila euro al mese con gli impianti di fotovoltaico. Ma questa è una parentesi. Oggi il nostro argomento è la meccanica italiana, l'eccellenza della meccanica italiana. Non è un caso che questa azienda, la Aton Storage, sia a Spilamberto di Modena, che fa con l'obiettivo di venderli all'estero sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici, sistemi che sono di elevato profilo tecnologico innovativo e che vengono progettati, disegnati, ingegnerizzati e prodotti nella sede di Spilamberto. Oggi il nostro ospite è Aldo Balugani, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Amministratore delegato dell'azienda e ambizioso creatore di questa idea di business. Ma com'è che lei viene da un gruppo, il gruppo SEM, che fa acque minerali? Com'è che le è venuto in mente dalle acque minerali di fare le batterie per l'energia fotovoltaica? Beh, diciamo che la nostra azienda ha sempre avuto una forte impronta verde, anche come desiderio dei fondatori, che siamo io, mio fratello e mio cugino. Però devo dire che avevamo anche un'esperienza pregressa nel settore dell'elettronica, perché avevamo un'azienda che è stata poi fusa in Aton Green Storage, uh-huh, che ha contribuito alla sua creazione, che faceva impianti di ricariche per batterie industriali e sistemi di telecontrollo, che sono due dei punti fondamentali per l'utilizzo della nuova tecnologia degli impianti di stoccaggio, quelli di cui stiamo parlando oggi, dottore. E voi vi siete dati fin dall'inizio, voi siete praticamente una startup. Sì, esatto, un'azienda di recente costituzione, diciamo, nasce a metà del 2014. Il 2015 è stato il primo anno di attività piena, abbiamo venduto oltre 1000 impianti, uh-huh, di accumulo, e quest'anno siamo già a 1000 impianti, un pochino più di 1000 impianti venduti a luglio, quindi prevediamo un incremento di circa il 50% del fatturato rispetto a quello dell'anno precedente. Comunque siete una startup. Certo. E voi fin dall'inizio vi siete proposti di fare tutto, il disegno, il progetto, il software, e di produrre al vostro interno, corretto? Esatto, corretto. Perché? Perché abbiamo eccellenze nella nostra regione, nella nostra provincia, devo dire in Italia, però Modena ha sempre avuto una forte vocazione industriale nel campo della meccanica e dell'ingegneria. Non cito i nomi delle aziende modenesi presenti perché tutti le conoscono. No, citiamoli. No, ma siamo vicinissimi alla Ferrari, ecco, che è il polo dell'eccellenza a Maranello. Spilamberto dista meno di 10 chilometri, ecco, voglio dire, è tutto un mondo di ingegneri che ruotano intorno all'Università di Modena e Reggio Emilia, che fa uscire anche persone di grande talento, e per fortuna non tutti scappano all'estero, alcuni vengono anche utilmente impiegati nelle aziende locali. Noi abbiamo un team di 16 ingegneri per la progettazione, abbiamo investito l'anno scorso oltre 3 milioni di euro sempre nello sviluppo della tutte progettazione. Tutte cose interessantissime, siamo costretti a interromperci per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Città. Restate con noi. JP Morgan Asset Management vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in onda, stiamo parlando con Aldo Balugani, che è l'amministratore delegato, il fondatore di Aton Storage, che è una startup che fa sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici. Più o meno è lo stesso settore in cui opera l'americana Tesla, anche se ci sono problematiche di tipo diverso. Siamo a Spilamberto, siamo nel cuore del distretto della meccanica italiana, dove c'è la Ferrari e dove ci sono tante altre eccellenze della meccanica. E qui si è pensato di investire con una startup che fa dei sistemi che potrebbero diventare universali, anche perché in Italia siamo nel secondo paese europeo per numero di impianti installati. Ecco, Balugani, il vostro più che un sistema di batteria è un vero e proprio gestore dell'energia, ci spiega come? Esatto, e questo è il senso dell'apparecchiatura. La batteria in sé, per sé, fosse semplicemente installata, non servirebbe a niente. Questo è un sistema che permette di gestire tutta l'energia prodotta dal pannello solare. In poche parole, durante tutte le ore di luce, mentre il pannello lavora, l'energia entra nell'accumulatore che fa tre tipi di operazione: accumula una parte dell'energia, una parte la usa per gli usi domestici e, se c'è eventualmente energia eccedente, la cede alla rete. Quando il sole tramonta, quando inizia di solito l'utilizzo maggiore per le utenze domestiche dell'energia, l'impianto comincia a cedere l'energia accumulata e fino alla mattina utilizza l'energia che ha nelle batterie. Se l'energia dovesse mancare per un uso molto forte di energia durante la notte, comincia ad attingere alla rete e smette immediatamente quando al sorgere del sole c'è la nuova possibilità di ricaricare l'accumulatore. Quindi è un gestore in tutti i sensi, ecco, più che una batteria vera e propria che svolgerebbe un'azione completamente diversa. Ecco, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, la vostra scelta è stata di fare tutto al vostro interno, dal software alla fabbrica, perché questo vi permette di attingere alle competenze che ci sono nel distretto. Esatto, sarebbe impossibile farlo in un distretto che non fosse così ricco anche di aziende che fanno tutti i componenti accessori che noi acquistiamo, perché voglio dire, dalla parte della carrozzeria in materiale assolutamente anallergico, plastico, con possibilità di modulazione, di forgiatura, eccetera, agli impianti più tecnologici come i caricabatterie, come le schede elettroniche, eccetera, attingiamo a piene mani al distretto di Modena, Reggio Emilia e Bologna, facendo tutto all'interno, perché abbiamo un controllo enormemente maggiore sul prodotto. Cioè il fine linea che fa i test di collaudo del prodotto lo facciamo internamente, quindi quando il prodotto esce dal nostro stabilimento siamo assolutamente certi della bontà del prodotto. Ecco, prodotto che poi viene venduto a chi? Il prodotto viene venduto normalmente agli installatori, oppure è un prodotto che può essere utilmente, secondo noi, venduto alle multi-utility. Ce ne sono diverse in Italia, non voglio fare un nome singolo, ma posso citare, non so, Enel, Era, i grandi gruppi che hanno al loro interno la possibilità di far installare ai propri utenti che hanno già il pannello solare anche un impianto di accumulo e di spalmare nelle bollette il costo del loro. Ma come mai, visto che da una vita che c'è questo fotovoltaico, che tra l'altro gode di generose sovvenzioni da parte statale, come mai solo adesso ci si pone il problema dell'accumulo? È cambiata anche la tecnologia. Mi faccio solo dire una brevissima cosa, perché voglio tranquillizzare molte persone che chiamano anche il nostro centralino chiedendoci se gli aiuti che ci sono, che di cui godono, vengono persi facendo l'autoconsumo. No, la risposta è no. Gli aiuti che ci sono aiuti che vengono erogati sulla capacità prodotta di produzione dell'energia alternativa. Quindi tutto quello che è autoconsumo non va a toccare minimamente gli aiuti che loro ricevono. Sono aiuti che sono in molti casi vicini alla scadenza, ma quelli che sono gli aiuti che una famiglia riceve per aver montato l'impianto fotovoltaico non vengono minimamente intaccati dal fatto di installare nella loro proprietà un accumulatore che faccia che sia propedeutico all'autoconsumo dell'energia prodotta. Allora, adesso io le ricordo l'altra domanda, che come mai porsi il problema adesso? Ecco, mi scuso per aver divagato prima, ma certamente questo è un tema importante. Intanto sono cambiate le tecnologie delle batterie. Oggi noi usiamo batterie al litio che non sono inquinanti, non sono rumorose, non si scaldano. Un impianto di accumulo potrebbe essere installato in un salotto, in una camera da letto. Non fa alcun rumore, non scalda, non ha inquinamento elettromagnetico di alcun tipo. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo, e forse anche il motivo principale, è che soltanto a fine del 2014 è stata concessa per legge la possibilità di fare autoconsumo e di cedere l'energia eccedente l'autoconsumo alla rete elettrica nazionale. Ma perché uno dovrebbe avere interesse a fare autoconsumo se cedendo l'energia elettrica eccedente riceve un prezzo di acquisto molto vantaggioso? Dunque, l'energia che bisogna scindere l'aiuto, che è l'aiuto all'impianto, che riguarda soltanto la capacità produttiva. Se lei ha 3 kW riceve aiuto per 3 kW di produzione, poi l'energia la vende a un prezzo da grossista a un ente, a una rete elettrica, mentre riacquista a un prezzo dal dettaglio che è normalmente molto molto maggiore. No, intanto c'è l'IVA al 22%, ci sono le tasse, ci sono le accise, ci sono le imposte, quindi l'operazione di produrre energia in casa, venderla alla rete e riacquistarla quando se ne ha bisogno, sicuramente è meglio di niente. Cioè, voi avete un vostro brevetto proprietario? Beh, questa è una tecnologia che noi abbiamo brevettato in alcune parti, nel sistema di telecontrollo e in altre parti. L'energia, il sistema di accumulo credo che non sia brevettabile, perché deve essere un sistema a disposizione, voglio in senso generale, a livello mondiale. Come lei ha citato prima, Open Innovation. Open Innovation, sì, esatto. Quindi siamo in concorrenza con Tesla, siamo in concorrenza con gruppi coreani. Vogliamo dimostrare che in Italia è possibile sfidare questi colossi. Il nostro prodotto, io non voglio farne pubblicità perché non so se si può fare in questo sede. Può dire quello che vuole. La ringrazio. Allora dirò soltanto la verità, che il nostro prodotto è più competitivo ed è tecnologicamente più avanzato dei prodotti che ho citato prima. Ma lo dico senza alcun timore, perché sono state fatte prove indipendenti che dimostrano che il sistema è più modulabile, enormemente più facile da installare. Si installa veramente da parte di un installatore specializzato. Si tratta di elettricità, non si può installare in fai da te, ma si installa veramente in 30 minuti, senza bisogno di canaline, senza bisogno di aggiungere niente, di forare muri, di fare cose strane. È un elettrodomestico che fa risparmiare denaro anziché farlo spendere, ed è tecnologicamente più avanzato di tantissimi altri prodotti della concorrenza. Credo che l'Italia, che come ha giustamente detto lei è il paese che è il secondo paese in Europa per numero di impianti installati, debba approfittare di questa opportunità, perché crea un risparmio reale per le famiglie. Poi ci sono tutti gli altri ovviamente gli altri argomenti a favore di un autoconsumo che... Vabbè, senta, il tempo è tiranno, quindi dobbiamo stringere. Voi avete chiuso il primo anno con 2,2 milioni di euro di ricavi. Il primo anno era il 2015, nel 2016 prevedete di raddoppiare. Insomma, avete un piano di crescita abbastanza ambizioso. È vero, ma siamo ancora su numeri infinitamente piccoli rispetto alle potenzialità del mercato. Quando si noi non pretendiamo ovviamente di servire tutto il mercato, sarebbe velleitario da parte nostra, però io credo, noi crediamo, che quando c'è la possibilità per una famiglia di contribuire attivamente al rispetto ambientale, di contribuire alla stabilizzazione della rete elettrica nazionale, che è un altro argomento importante, di fare autoconsumo, cioè di avere la possibilità di controllare che tutta l'energia che si produce viene consumata per proprio uso personale e soltanto quella eccedente viene venduta alla rete, aggiunto a tutto questo, in questi momenti un po' difficili per tutti, avere un risparmio reale ogni mese sulla bolletta energetica al netto della rata di pagamento dell'impianto, cioè, voglio dire, pagando l'impianto a rate si ottiene un beneficio netto mensile, e poi c'è il tesoretto fiscale che si va ad accumulare, che anche quello è comunque una cifra significativa, perché questi impianti godono di un bonus fiscale del 50%. Ecco, poi un'altra notizia, che voi avete state chiudendo degli accordi con il gruppo giapponese Nagase & Co. per commercializzare i vostri prodotti in tutta l'area del sud-est asiatico, cioè Nagase venderebbe a Cina, Giappone, a tutti quei paesi lì i vostri prodotti. È una cosa che, oltre a essere molto positiva, fa sorgere la domanda: ma ce la farete poi a produrre tutto? Beh, ci dovremmo attrezzare. Abbiamo fatto l'inaugurazione del nuovo stabilimento non più tardi di un mese fa, che è il triplo di quello nato l'anno scorso. È chiaro che cercheremo intanto di soddisfare al pieno il mercato italiano, però l'esportazione è un settore molto importante. Lei ha citato una grande multinazionale giapponese che si è dimostrata interessatissima al nostro prodotto. Abbiamo già stipulato un contratto con un'azienda messicana, perché io non avrei pensato, invece il Messico è molto interessato a questi prodotti, a questi sistemi di accumulo, anche perché la rete elettrica messicana è un pochino meno efficiente della nostra in tante zone del Messico, e quindi questo è un anti-blackout naturale, perché uno accumula e poi dopo usa quando è necessario. Usa quando è necessario. E quindi abbiamo già stipulato un accordo con i messicani, abbiamo interesse comunque anche dalla Francia, anche dalla Germania, sebbene anche la Germania sia produttrice di questo tipo di impianto. L'esportazione è un bel risultato, che premia una scommessa imprenditoriale. Nel nostro paese ci sono ancora tantissimi imprenditori che sono degli eroi. Cioè, pensate, questo signore qui fa le acque minerali, poteva stare tranquillo nelle acque minerali, invece di mettere 3-4 milioni lì si comprava la casa in Costa Azzurra e la Ferrari, e chi se ne frega di rompersi tanto le scatole a fare una nuova azienda. E invece è magnifico fare queste nuove iniziative, ne sono soddisfattissimo. Il team dei nostri ingegneri, i ragazzi che sono diplomati nei nostri istituti tecnici di Modena, che lavorano a tempo pieno, assunzione a tempo indeterminato, questo grazie anche al Jobs Act che ci ha permesso di assumerli senza avere dei costi esagerati per il primo anno di attività, perché come giustamente ha detto lei l'azienda è appena nata. Sì, quindi forse non era necessario introdurre la licenziabilità come ha fatto il Jobs Act, ma questa è una mia opinione personale. Senta, dobbiamo chiudere, il tempo è tiranno, alla prossima. Arrivederci agli ascoltatori, sabato prossimo. Molte grazie, arrivederci a lei e tutti i suoi ascoltatori. Grazie.